cuore denari in brasiliano, in brasileiro? Coração e dinheiro. Bellissimo. Buongiorno Nicoletta e buongiorno Deborah e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Corazon e Dinheiro. Corazon e Dinheiro. Facciamo rete, stiamo bene insieme. Corazon e Dinheiro. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà! Non c'è proprio che dire, sono giornate in cui tutto ruota attorno al mondo del cibo e dell'alimentazione. Oltre al fermento creato attorno a questo settore dalla partenza ufficiale di Expo 2015, questi giorni Milano è animata anche da Tutto Food, il salone agroalimentare di Fiera Milano. Stiamo parlando della terza fiera agroalimentare in Europa. Pensa che manifestazione, Nicoletta. L'edizione 2015 si caratterizza per il focus speciale sul nuovo Tutto Food. Ai settori storici e tradizionali dell'agroalimentare si aggiungono infatti nuove merceologie di prodotto. Noi però oggi, rubacchiando un tema di Tutto Food, abbiamo deciso di occuparci invece di un settore che rappresenta un'autentica eccellenza per il settore agricolo italiano, perché ci occuperemo di olio d'oliva, prodotto in Italia da 900.000 aziende agricole. Pensate quanto vale questo settore. La qualità è eccellente, ma le famiglie italiane quanto sono disposte a spendere per una buona bottiglia d'olio? Vanno al supermercato o si riforniscono di taniche dall'olivicoltore? Oggi monitoriamo il vostro consumo di olio, ma naturalmente raccontatecelo voi come lo consumate all'800240024. Nicoletta, praticamente il tema perfetto per Cuore Denari. È un tema perfetto per Cuore Denari, perché anche nella parte del cuore parleremo delle virtù salutari dell'olio, che è il condimento principe della dieta mediterranea, che mette d'accordo medici e gourmet, perché oltre a essere buono fa anche bene. C'è chi lo definisce farmalimento, chi nutraceutico, proprio a sottolineare i vantaggi che un consumo adeguato garantisce alla salute. Ma al di là delle definizioni degli appellativi, la ricerca ha ampiamente dimostrato che nell'olio extravergine d'oliva si trovano sostanze capaci di svolgere una potente azione preventiva e protettiva nei confronti di molte malattie, e c'è chi è pronto a raccontarci che l'aggiunta di un filo d'olio alla nostra dieta quotidiana allunga la vita. Ne parleremo a partire dalle 11.45 col professor Giovanni Scapagnini. Intanto voi raccontateci all'800240024 se lo consumate solo per soddisfare il gusto, o anche, perché no, per fare scorta di salute. È inutile, sa, quando arriva quest'ora io devo mangiare. Ah sì? Capisci Pasquale, lei, la signora, quando arriva quest'ora deve mangiare. Lei? Ancora non mi sono abituata alla vostra cucina. Alla nostra cucina? E come vi potete abituare? Non siamo abituati neanche noi. No, ma io dicevo quella napoletana. Sì, è quello napoletano. Perché qui a Napoli cucinate tutto quanto con l'olio. Hanno questo brutto vizio a Napoli, Nicoletta, di cucinare tutto con l'olio. Allora, lo sappiamo, l'Italia è il paese dell'olio extravergine di oliva per eccellenza, con, lo dicevo prima, 900.000 aziende agricole, quindi 900.000 produttori, 1 milione di ettari coltivati ad olivicoltura. Ma il biglietto da visita non si ferma qua, è lunghissimo. L'Italia è il secondo produttore mondiale, il terzo produttore europeo di olive da tavola. Altro, l'Italia è prima in Europa per qualità, con 43 produzioni fra DOP e IGP. Infatti Paolo scrive al 349-238-6666, la scelta è un rebus molto difficile. Noi vorremmo sapere come lo consumano gli italiani, dove lo comprano, quanto siete disposti a spendere per una bottiglia d'olio, perché qui c'è anche chi si lamenta del fatto che sia un prodotto costoso e allora ci si accontenta magari di prodotti qualitativamente discutibili. Qual è il prezzo giusto di un litro d'olio, considerato anche che quest'anno la produzione è in forte difficoltà. Dove andremo a prendere l'olio che manca? Buongiorno e benvenuto a Pietro Sandali, direttore generale di Unaprol, che è il consorzio olivicolo italiano che abbiamo strappato proprio da Tutto Food stamattina. Buongiorno. Buongiorno a voi. Benvenuto naturalmente. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi, ma scriveteci come state già facendo al 349 238 6666. Intanto ho un dato: gli italiani ogni anno consumano 12 kg di olio extravergine di oliva in media a persona. Un dato attendibile, dottor Sandali? Certo, certo. È questo verissimo. Quindi l'ordine medio, diciamo, del consumo dell'italiano. Verissimo. Allora, altri dati. 1,4 miliardi di euro circa il valore della pianta delle olive, alla pianta delle olive, e 3 miliardi di euro il valore del fatturato generato dalla fase industriale della filiera, pari al 3% del fatturato totale dell'agroindustria, dell'industria agroalimentare. Allora, qua mi fermo con i dati, se no facciamo girare la testa agli ascoltatori. Vorrei capire, dottor Sandali, cosa è successo quest'anno, perché ci lamentiamo del fatto che non si trova olio d'oliva, è vero? Sì, diciamo che quest'anno è un anno terribile per la produzione, mai si ricorda una scarsa produzione come quest'anno per una serie di concause, a cominciare dalla stagione fredda durante la legagione degli olive, ovviamente. La legagione, sì, cioè che dal fiore poi ovviamente nasce l'oliva. E poi a seguire l'alternanza delle temperature ha favorito l'invasione di patogeni, mai come quest'anno è stato difficile. Difficilissimo, come dire, combatterli e quindi seguirli, e la somma di queste cose ha fatto sì che non abbiamo raggiunto le 200.000 tonnellate di produzione, a differenza degli altri anni che normalmente siamo attorno ai 450.000. Quindi più che dimezzata praticamente la produzione quest'anno. Come facciamo ad accontentare i visitatori di Expo? Allora, come facciamo? I visitatori di Export, gli operatori e anche i consumatori che la visitano, li accontentiamo con il prodotto di qualità, perché nonostante questo molti produttori sono riusciti a produrre poco ma di qualità. Questo si evince anche dai diversi premi che vengono dati, quindi il coraggio che queste aziende hanno avuto di partecipare a questi premi, hanno partecipato, diversi hanno vinto su un prodotto di qualità. Questo è un buon segnale, vuol dire che le aziende stanno andando verso questa direzione. Abbiamo qualche dato interessante anche per quello che riguarda le caratteristiche delle aziende italiane. So che c'è una situazione di forte frammentazione che comunque è anche funzionale alla tipicità della produzione. Noi abbiamo in Italia 673 confezionatori, 2.624 confezionatori con frantoio, poi magari mi spiega la differenza, 3.760 frantoi per 350 tipi di qualità d'olio d'oliva diverse in Italia, Sandali? Sì, dobbiamo distinguere. Ecco. Allora, innanzitutto c'è una fotografia della parte agricola, quindi degli olivicoltori, che assomiglia molto ai viticoltori. Ecco, se voi vedete, sembra che il paragone tra il mondo dell'olio e il mondo del vino possa aiutarci a comprenderlo più facilmente. Sicuramente. Perché quello del vino c'è più familiare, ecco. Sicuramente. Quindi, come ha visto dai numeri, siamo circa qualcosa di più di un ettaro mediamente. Poi ovviamente abbiamo le grandi aziende, abbiamo le piccolissime aziende con qualche pianta, eccetera. Questa è la fotografia, come dire, della parte agricola. Poi i numeri che lei ha citato nell'ambito della lavorazione, dell'imbottigliamento, eccetera. Ecco, questa è un po' la croce e la delizia del nostro, mm-hmm. del nostro paese. La croce perché ovviamente sono tanti. Tenga presente che molti di questi frantoi quest'anno non hanno aperto, proprio perché mancava il prodotto. Sono tanti e quindi non sempre lavorano a regime, il che vuol dire che i costi ovviamente di lavorazione aumentano. Dall'altra parte delizia, perché porto sempre l'esempio della Spagna, che ha pochissimi, come dire, fabbriche o frantoi, se mi consentite il termine, per la molitura delle olive, e questo fa sì che dalla raccolta alla frangitura passi molto tempo, a differenza in Italia che invece dalla raccolta alla molitura passa pochissimo tempo. Mm-hmm. Questo che cosa vuol dire? Che da noi l'olio è una spremitura delle olive per il tempo che necessita. Là dove invece i tempi sono più lunghi c'è bisogno di aggiustare l'olio perché sia, come dire, poi commestibile. E con naturali ricadute anche sul livello dei prezzi, poi immagino. Dei prezzi e soprattutto anche sulla qualità, ovviamente. 800 24 00 24, non le dico già quante telefonate stanno arrivando, gli ascoltatori pronti a chiacchierare con noi su questo argomento. Le chiedo però, prima di interpellarli, dottor Sandali, di raccontarci intanto questo vostro consorzio, che tipo di attività svolge e quante associazioni o aziende raccogliete sotto la vostra insegna. Ma UNAPROL è un consorzio nazionale, quindi un secondo livello. Noi associamo ad oggi 54 associazioni di base che coprono tutto il territorio dall'Olio del Garda alla Sicilia, per essere precisi, con circa 200.000 singoli produttori che stanno in questo sistema. Noi cerchiamo di accompagnare, di aiutare i nostri associati attraverso azioni con fondi comunitari che vanno verso il miglioramento della qualità, la tracciabilità del prodotto, il miglioramento delle condizioni ambientali, ovviamente della coltivazione, e poi facciamo diversi progetti di promozione sia a livello nazionale in Europa e fuori dall'Europa. Perché di quelle insomma non ne abbiamo mai abbastanza, dobbiamo far conoscere purtroppo quali sono le dinamiche appunto della produzione che portano qualche volta anche il livello di prezzo ad una certa soglia che addirittura viene anche un po' contestata dai consumatori, che si lamenta che magari va al supermercato e dice ma insomma ho trovato, mi era rimasta molto impressa, poi non siamo riusciti a ritrovarla. Con Marco Lombardo, la considerazione che ha fatto un'ascoltatrice in una trasmissione qualche tempo fa, che diceva insomma avevo trovato quell'olio lì in offerta a 4 euro e qualcosa, poi mi sono lamentata col supermercato perché non ce l'hanno messo più, ma insomma con 4 euro al litro, dottor Sandali, che cosa compriamo? Poi dopo parleremo anche della grande distribuzione organizzata, che è chiaramente un canale per distribuire questi prodotti, che ovviamente ha un forte potere di trattativa anche con i produttori, che può ridimensionare i prezzi. Però fino a che punto dobbiamo accettare un livello di prezzo così basso? Ma guardi, con 4 euro al litro noi lo produciamo l'olio. Lo produciamo in una zona, no, perché si trova anche sotto 3, quindi proprio... ripeto, lo produciamo in una zona come la Puglia o come la Calabria, cioè le due regioni maggiormente produttive, assieme superano il 50% della produzione nazionale, quindi quelli sono i costi, diciamo che vanno dalle 3 euro ai 4 euro di i costi di produzione. Chi è al di sotto di questo è un altro olio, evidentemente. O è un olio non italiano, o è un olio che ha all'interno un po' d'Italia e il resto di qualche altro. È multietnico, insomma. Poi tra l'altro l'olio, purtroppo, noi normalmente lo andiamo ad acquistare nella grande distribuzione, è purtroppo un prodotto che continua ad essere utilizzato come prodotto civetta, quindi oltre ad avere questo passaggio, no, diciamo di miscela, se mi consentite il termine, c'è anche il fatto di come viene messo sullo scaffale da parte della grande distribuzione. Qual è il tipo di prodotto che gode dell'apprezzamento maggiore da parte del consumatore italiano, dottor Sandali? Ma generalmente la graduatoria è questa: prima ci sono le DOP, l'IGP, oggi abbiamo l'IGP toscano, poi l'olio biologico, e a scendere il 100% italiano e per seguire tutto il resto. Quindi l'italiano è un pochino esigente quantomeno sul consumo di olio di oliva, non viene tanto a patti con... Non solo l'italiano, anche i mercati esteri, e in modo particolare quelli più importanti che per noi sono gli Stati Uniti, il Canada da una parte, il Giappone dall'altro emisfero, e in Europa la Germania. Fatto bene a citare gli Stati Uniti, perché abbiamo avuto anche lo sgradevole episodio di un anno fa circa, mi pare, con il New York Times, che ha pubblicato questo servizio sul, titolandolo così, il suicidio dell'olio extravergine di oliva italiano. Poi magari ce lo ricorderemo questo episodio, prima però direi di sentire invece, che sono molto più interessanti, i commenti dei nostri ascoltatori. Allora andiamo a Lucca, perché c'è Yuri. Buongiorno Yuri, benvenuto. Buongiorno Yuri, lei acquista l'olio? Sì, l'olio, Luca naturalmente è la patria dell'olio, quello buono, e io lo prendo esclusivamente da degli amici che hanno l'oliva e se lo frangono da solo, da soli, e quindi meno di 10 euro non lo pago mai, vuol dire che una tanica la pago sempre 50, da 5 litri 55-60 euro. Naturalmente vado anche al supermercato, mia moglie lo prende anche al supermercato. Attenzione, perché secondo me, come il vino, sotto 10 euro non è vino di uva, pardon, e l'olio soprattutto non si sa che provenienza abbia sotto i 10 euro. Abbiamo già definito, grazie a Yuri, degli scaglioni di prezzo. Questa mattina potremmo intitolare un po' la puntata anche, ok, il prezzo è giusto, no? Per un litro di olio d'oliva abbiamo indicato prima i 7 euro, non so perché mi siano venuti in mente questi, forse ne parlavamo a microfoni spenti. Sì. Yuri alza la soglia, l'asticella, la porta a 10. Sandali che cosa consuma invece? Quanto spende? Posso saperlo? No, ma guardi, io credo che un'annata normale, ovviamente, i 6-7 euro siano già un prezzo accessibile. Meno comincerà ad avere serie difficoltà. Poi, come ha detto l'amico al telefono, in Toscana 10 euro acquistati come li acquista lui, quindi non al supermercato, è un valore che ci sta tutto, come ci possono essere valori ancora maggiori se andiamo in Liguria o sul Garda. Esatto, poi posso anche dirlo, si remunera adeguatamente il lavoro dell'olivicoltore, che se fa una raccolta a mano, voglio dire, ha un valore diverso rispetto magari ad una un po' più meccanizzata, che chiaramente accorcia i tempi, per cui anche lì poi questo accorciamento si può riflettere sui prezzi, no Nicoletta? Ah certo, e a proposito di prezzi, Andrea da Pordenone acquista olio extravergine d'oliva di olive taggiasche da un'azienda agricola ligure, latte da 5 litri circa 76 euro consegnato a casa. E poi ci scrive Laura, che dice che non compra mai olio al supermercato perché non si fida, perché costa troppo poco per essere veramente buono e poi è troppo esposto alla luce. Allora, con il dottor Sandali mi piacerebbe commentare questi due punti di vista dei nostri ascoltatori. Ma li condivido tutti. Condivido, perché come dicevo prima, sicuramente l'olio liquore ha un mercato un po' più alto, ma è giustificato dai costi, come si diceva prima, ma anche da piante che producono meno rispetto alle piante pugliesi e alle piante calabresi. Quindi la motivazione c'è, non è una speculazione questa. Poi rispetto al supermercato, sull'olio al supermercato ci sarebbe da rimanere qui tutta la giornata. Sicuramente la fonte di calore... Non vuole rimanere, vedi, ha già messo le mani avanti, ha detto... Gli chiediamo una sintesi per rimanere quanto necessario. Però ha ragione l'amica che ha scritto e ha telefonato, perché la luce e le fonti di calore danneggiano il prodotto. Ci sono però prodotti che hanno il vetro scuro, oppure sono fasciati... Uno spessorino, sono un po' più questo aiuta, ma visto che ha citato anche il fasciato eccetera, siamo su valori molto molto alti rispetto a quelli che abbiamo sentito fino ad ora. Ci sono ovviamente delle precauzioni, però voi mi insegnate che l'olio fasciato è molto meno rispetto a quello che noi vediamo normalmente in questo muro di bottiglie che ci troviamo alla grande distribuzione. Ma da questo possiamo dare un'indicazione all'acquisto per i nostri ascoltatori, se lo comprate al supermercato, ma anche nel negozio, perché attenzione al vetro, che deve essere scuro, deve essere comunque, la bottiglia deve essere protetta. Possiamo dare un'indicazione indirizzare l'acquisto? Ecco. L'80% dell'olio che non troviamo normalmente lo troviamo in una bottiglia scura, quindi già questo aiuta. No? Ecco. L'altra parte, i valori li abbiamo detti, li ripetiamo, insomma, se siamo attorno ai 7 euro non scendiamo da lì, è già un'indicazione. Dopodiché dovremo leggere l'etichetta, adesso non vorrei farla molto lunga e complicata per fare un acquisto. Ma l'etichetta è un grande cavallo di battaglia, esatto, di Cuore Denari, vero Debra? Ci dia le tre voci importanti che dobbiamo leggere di un'etichetta. L'etichetta, dove ovviamente uno va a vedere l'origine del prodotto, se è origine italiana, se è un'origine europea, se è una miscela di prodotti europei piuttosto che extraeuropei, nell'etichetta viene riportato. Ripeto, certo che con i tempi di oggi serve anche il tempo per fermarsi davanti a uno scaffale Il portafoglio piange, dottor Sandali, per cui io mi rendo conto che a noi piace portare in tavola il meglio, come italiani lo esigiamo sempre, poi però quando non si arriva alla fine del mese, diciamo di fronte ad una bottiglia di olio che costa 5-6 euro, una che ne costa 15, la scelta dell'italiano medio, della famiglia, anche se poi lo scandagli un po' il consumo, naturalmente non è che te lo consumi tutto in una settimana, però in ogni caso questo problema pure c'è. Tanti twittatori stamattina anche sull'argomento. Alessandro ci scrive: uso solo olio extravergine d'oliva, l'olio d'oliva normale non mi piace. Serena ci scrive che apprezza quello ligure, quello italiano in generale, mi rifiuto di prendere quello da 4 euro a bottiglia o giù di lì. Fabrizio ci dice: lo acquisto in Puglia, zona Foggia, varietà Peranzana, qualità altissima, costo 7 euro al chilogrammo, quindi se lui la definisce una qualità altissima il prezzo mi sembra più che accettabile. Angelo: non dimentichiamo che oltre all'extravergine in Italia si fa una grande produzione di olio lampante. Ci decripti questo termine, Sandali? Allora, l'olio lampante non è un olio. Cioè, è un olio che deve essere un prodotto che deve essere lavorato per arrivare sulle tavole, per essere usato dal punto di vista commestibile. Si chiama lampante non a caso perché nel tempo si usava per le lampade, quindi aveva quella finalità. Sì, se ne produce ancora, molto meno rispetto al passato. È un prodotto che normalmente da dove deriva? Deriva da impianti molto molto grandi che è difficile raccogliere, quindi si aspetta che le olive caschino per terra. Ovviamente cadendo non sono olive buone, donne hanno qualche problema e quindi, come dicevo prima, poi hanno bisogno di essere trattate. Da lì ne esce un olio lampante, un olio che ha bisogno di essere lavorato per usarlo. Maria Grazia da Cittadella, buongiorno. Cittadella Padova? Eh sì, Cittadella Padova, buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione. Grazie. Cosa porta in tavola lei, Maria Grazia? Ci dica un po'. Io uso olio extravergine d'oliva. Veniamo a pranzo da lei allora. Sono figlia di madre pugliese che l'ho sempre apprezzato. Ecco, io mi ponevo un problema. Io adesso compro l'olio extravergine in un negozio biologico e notavo che non c'è la data di imbottigliamento dell'olio, c'è la data di scadenza. Ad esempio, avendo preso io un po' di bottiglie 2 mesi fa, la scadenza è nel 2016 e ho sempre saputo che in un anno le proprietà organolettiche tendono un pochino a scemare. Ecco, volevo sapere questo, come mai non c'è la data di imbottigliamento e quanto può durare un olio imbottigliato in vetro scuro al buio senza perdere le proprietà. Grazie. Grazie Maria Grazia, che bella domanda, molto articolata e precisa. Dottor Sanda, allora sul tema olio biologico, ha spiegato Maria Grazia, non hanno l'obbligo questi produttori di indicare una data di confezionamento? A prescindere, dall'olio biologico, la norma permette di indicare la data di 18 mesi per la scadenza dal giorno dell'imbottigliamento. Queste sono le norme. Per cui il fatto che ci sia una scadenza si va a ritroso... Cioè parte dal momento in cui si imbottiglia e quindi lei mi dirà, può essere l'olio anche dell'anno, dell'anno prima, sì, può essere anche l'olio dell'anno prima. Però quanto può durare questo olio? Innanzitutto, come dicevo prima, deve essere conservato bene, in un posto fresco, insomma normale, come un buon vino, non lontano da fonte. Ma questo olio ha indicata la data di scadenza, ma sì, non quella di confezionamento, esatto. Per cui evidentemente se nel 2016 è stato indicato l'anno di scadenza teorica, significa che nel 18 mesi prima sarà stato imbottigliato. Ecco, esatto, questo. 18 mesi prima, dal momento dell'imbottigliamento. Quindi sia poi sulla qualità o sul mantenimento delle proprie caratteristiche, ripeto, deve essere conservato in un posto fresco, normale, lontano da fonti di calore. Anche e poi quindi comunque, quando lo conserviamo in cucina. Ecco, magari sopra il fornello, quello bravo, non va bene. Ecco. Quello non va bene. Però quando perde le caratteristiche? Ma la signora, ma tutti noi, insomma, chi usa l'olio d'oliva lo sente quando perde le caratteristiche. Non è che spariscono i polifenoli o altri elementi interni, comincia a irrancidire. Vedi, è un po' scapagnesco, vedi? Adesso ne parleremo proprio di polifenoli col professor Scapagnini. Comincia un po' a irrancidire, sente un po' più acido, si sente quando, come si sente un vino quando sa di tappo, si sente l'olio quando non è più buono. Intanto allora, qua altro che olio d'oliva, abbiamo un altro appuntamento con altri prezzi, altre quotazioni con quelle della borsa di stamattina. Che vediamo se tutto fila liscio. Fila tutto oppure... abbastanza liscio, mi sembra. Andiamo allora. Cuore e denari. C'è chi lo usa a filo, chi lo misura a cucchiai, cucchiaini, chi abbonda, chi invece ne fa un uso molto parsimonioso, chi lo utilizza tassativamente crudo, magari anche sopra la pappa al pomodoro, e chi invece lo usa proprio ovunque, in tutte le salse. Famiglia che vai, convinzione e abitudine che trovi, proprio così. Nonostante sia un alimento che conosciamo da tempo e che usiamo da sempre, ci sono ancora tanti dubbi sul suo utilizzo. Ad esempio, è uno dei primi alimenti che si elimina quando autonomamente si decide di perdere peso. Insieme alla pasta si toglie anche l'olio. Allora di usi, abusi e limitazioni di questo alimento, condimento, parleremo a partire dalle 12 con il professor Pierluigi Rossi, che è medico specialista in scienza dell'alimentazione e docente all'Università di Bologna. Intanto voi iniziate a prenotare le vostre domande, lo state già facendo all'800 24 00 24, ma intanto una ve la faccio io. Qual è la parola che è automaticamente associata all'olio? Olio, gusto, salute, calorie o altro? Chiamateci. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. E come vi stiamo raccontando, l'olio è davvero un vero italiano. Ve lo stiamo raccontando anche dal punto di vista dei denari, parlandovi della sua importanza per la nostra economia. In questi giorni fa bella mostra di sé l'olio d'oliva italiano a Tutto Food. Vogliamo anche parlare del suo peso nel bilancio familiare, di quanto ci costa l'olio, quanto siete disposti a spendere, dove andate a comprarlo. E state regalandoci veramente tantissime testimonianze interessanti stamattina all'800 24 00 24. Molto incuriosito da questo anche Pietro Samda, il nostro ospite di stamattina, direttore generale di Unaprol, che è il consorzio olivicolo italiano. E allora, visto che si è scatenata questa guerra dei prezzi, vorrei sentire Salvatore Daenna, un piccolo produttore. Salvatore, buongiorno. Buongiorno. A quanto lo mette in vendita lei? Allora, io l'olio lo metto in vendita a 6-7 euro, sì. Ed è poco, per la verità. Allora, perché la coltura che facciamo noi in centro Sicilia, a parte la qualità dell'olivo, che è una qualità di alto livello, ma poi la coltura dell'oliva avviene in circa 2 mesi e mezzo, quindi raggiunge il massimo della non maturazione, perché l'oliva è in parte nera, in parte matura e in parte no. Giusto. E quindi viene un olio eccellente. Grazie a Dio siamo lontani dalle fabbriche, lontani dall'inquinamento, lontani dalla salsedine, un sito, diciamo, in collina, che si colloca bene con le esigenze che sono dell'olivo, quindi fresco e quant'altro. Un olio biologico. Io mi meraviglio come possa essere venduto questo olio nei centri commerciali a 3 euro. Olio extravergine di oliva. Ritengo, mi perdonerete la mia arroganza, ma di vergine non ha nulla questo olio. Non è... Salvatore, è il tema che ci sta incuriosendo da questa mattina, per la verità, quindi non è il suo solamente il punto di vista, tra virgolette, come dire, interessato, perché stiamo parlando di un piccolo produttore che al di sotto di un certo prezzo inevitabilmente non ci può andare, ma un grande produttore, Pietro Sandali, può essere in grado di rifornire la grande distribuzione facendo in modo che questa metta sugli scaffali un prezzo ad un livello così basso, oppure comunque a 3,50 euro non parliamo di olio italiano, ma di qualcosa che è miscelato con dell'altro? Sicuramente la seconda. Non è sicuramente, anche se è un grande produttore, è impossibile che possa vendere alla grande distribuzione a quei prezzi, perché ripeto, nella migliore delle ipotesi, poi qualcuno mi dirà che non è vero, perché sicuramente poi le aziende hanno condizioni diverse, ma al di sotto dei 3 euro è difficilissimo produrre. Poi pensate, bisogna mettere la bottiglia, l'etichetta, certo, il tap, il trasporto. Impossibile. Miscelato con che cosa? Ci spiega che cosa troviamo in queste bottiglie, perché adesso non vorrei neanche spaventare gli ascoltatori, come dire, raccontando che troviamo al supermercato un prodotto, non lo so, dannoso per la salute, non vorrei esagerare con i termini, ma miscelato con che cosa? Che cosa è in grado di abbattere così tanto il prezzo? Ma guardi, possono essere miscele di oli europei, miscele di oli extraeuropei, e ci può essere un po' di olio italiano e il resto, so, un quarto, faccio un esempio ovviamente, un quarto di olio italiano e tutto il resto di olio che viene da altri paesi, magari anche la Turchia, il Marocco, cioè altri paesi che hanno condizioni di produzione completamente diverse. È una miscela, è un prodotto che dovrebbe essere buono, quindi parliamo sempre di Mi hanno raccontato questo weekend di una persona turca, ero ad una tavolata, ad una cena con delle persone, che in un agriturismo, che spiegava che secondo lei l'olio turco è in assoluto il più buono, e quindi fa fatica questa persona ad abituarsi al consumo di quello italiano, per cui insomma, se abbiamo una miscela con l'olio turco non avremo poi un prodotto così scadente. No, ovviamente il prodotto va assaggiato, non possiamo così, come dire, a chiacchiere definire se un prodotto è buono o no. Diciamo che questa è una cosa che può essere fatta, può essere uno dei motivi in cui si abbattono i costi, alla vendita, però ci sono delle caratteristiche diverse che l'olio italiano ha. Ho cercato di spiegarlo prima, anche per le metodologie che vengono utilizzate per la spremitura e quindi la lavorazione del prodotto. E poi vorrei ricordare, insomma, noi abbiamo censito in Italia 600 varietà, ce ne saranno in produzione circa 300-350, ma sono varietà che hanno, come dire, caratteristiche organolettiche diverse, sono coltivate in territori diversi, come l'amico della Sicilia che diceva, io sono lontano dal mare, abbiamo oliveti sul mare, all'interno, in collina. Voi pensate che l'olivicoltura da noi per il 62% è in zone declivi. e quindi non è sulle spianate marocchine o turche, tanto per essere chiari. Quindi su questo le caratteristiche anche climatiche e organolettiche del territorio aiutano, infatti, a fare la differenza. Allora, qua abbiamo aperto adesso il dibattito sull'olio che si trova al supermercato, non ce ne voglia la grande distribuzione organizzata, ma chiaramente gli ascoltatori hanno un'opinione molto ben formata su questo argomento. Sentirei Piera da Milano, in realtà forse le abbiamo anche risposto. Piera, buongiorno. Buongiorno, sono io, sono Pia. Sì. Pia, non Piera. Okay. Senta, abbiamo un po' cambiato il nome. No, forse non l'ho spiegata io bene, non scusate. Si preoccupi. Senta, volevo dire, io prendo dell'olio più o meno buono, penso, non posso dire la marca se non farei pubblicità. Sui 15 euro a litro, sì. A volte lo trovo anche al 50-40%, sempre la stessa ditta, la stessa marca toscana. Vorrei sapere, mi posso fidare trovandolo a un prezzo talmente ribassato? Questo volevo sapere. Allora, quando anche uno è di grande qualità, beh, magari ci possono essere dei momenti in cui, non so, ci sono delle eccedenze come per qualunque altro prodotto che vanno per forza messe sul mercato rapidamente, rotto le sandali. Esatto. Oppure, insomma, più, come la valuta? Più che le eccedenze, prima abbiamo parlato di una data di scadenza. Può essere così come per la mozzarella, per i formaggi, no? C'è una data di scadenza. Se è vicino alla data di scadenza, ovviamente è abbastanza probabile che sia il produttore che il gestore del supermercato se ne voglia liberare. Quello può essere. Quindi, insomma, Piera, non ci si deve scandalizzare di questo. Vado a curiosare un po' sulle date che sono indicate in etichetta. Ce la facciamo, Nicoletta, sentire, ma volentieri. Pino, ma proprio rapidamente. Pino, buongiorno, deve essere telegrafico. Se poi vi è piaciuta così tanto, la riproporremo presto. Ma intanto di olio continuiamo a parlarne, esattamente, no? Sì. Pino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sentite, domanda velocissima. Grazie. Sono un piccolo produttore, ho 30 olivi. Tra parentesi, mi rendono al massimo il 13%. L'esperto poi spiegherà. Io al supermercato trovo a luglio, oggi a maggio, dell'olio torbido di oliva extravergine definito, quando il mio olio che faccio, che è torbido quando esce dal frantoio, a dicembre lo travaso, come mi hanno insegnato buona norma, ormai è limpido. La torbidezza dell'olio dovrebbe essere l'acqua e alcune sostanze che rimangono in sospensione appena spremuto, poi si depongono. Com'è possibile che questo, dopo mesi in bottiglia, sia torbido? Pino, grazie, velocemente. Buona adesso giornata, grazie anche a lei. Ci fa anche in questo caso una spiegazione tecnica della situazione che ci ha indicato l'ascoltatore, dottor Sandali. Beh, sulla percentuale è la resa, cioè un chilo di olive rende il 13% in olio, quindi quella è la resa abbastanza normale. Sulla seconda, bisogna vedere la bottiglia, certo che, come dire, mi verrebbe da dire hanno raschiato il barile e quindi molto probabilmente è un olio non ben lavorato. E con quest'altra indicazione concreta su quello che possono trovare gli ascoltatori in vendita, i nostri consumatori, speriamo di aver soddisfatto almeno qua il tema. Come diceva giustamente prima Sandali, si presta a considerazioni che potrebbero durare per l'intera giornata, però speriamo intanto di aver dato qualche informazione utile, soprattutto a capire come mai quest'anno di prodotto buono in giro ce n'è poco, la produzione in grossa difficoltà. Grazie Sandra, le lasciamo tornare a Tutto Food, buon lavoro, so che siete in tanti stamattina. Grazie, per cui è una manifestazione molto vivace. Noi grazie, che facciamo intanto? Noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Sono le 11:47, ritorniamo subito dopo per parlare dei benefici dell'olio. A tra poco. Cuore e denari. Fantozzi, che aveva promesso alla Pina di perdere con lo sci almeno 5 kg, ecco, decise per il dimagrimento alternativo. Si fece ricoverare nella modernissima clinica locale per seguire la famosa dieta del professor Birkenmeier. Benvenuto nella sua nuova dimora. Grazie, professor Birken. Birkenmeier! Birkenmeier. Mi scusi, professor Birkenmeier, dato che non ho ancora fatto colazione, in cosa consiste la dieta qui? Niente. 20 giorni di digiuno assoluto. Niente mangiare, niente bere. Ma come? Niente mangiare? Niente mangiare, niente bere, neanche un fiellino d'olio. Mamma mia, lì si dimagrisce di sicuro, però... Un filo d'olio al giorno leva il medico di torno. Non me ne voglia la mela, che rimane insieme all'arancia simbolo di una dieta sana ed equilibrata, non come quella di Fantozzi, con spiccate attività protettive e preventive, ma l'olio extravergine d'oliva ha, come si dice, una marcia in più, un alimento con proprietà salutari certificati. Insomma, più che un alimento potremmo definirlo un farmalimento, appellativo che va ad indicare quei prodotti che soddisfano, oltre all'aspetto organolettico, anche quello nutrizionale in generale e salutistico in particolare. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Giovanni Scapagnini, professore di biochimica all'Università degli Studi del Molise. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno. Buongiorno a te. Professore, non mi dica che si sente male, eh? Il telefono, dicevo. No, il telefono mi sembra si senta perfetto, molto bene. Meno male, ho avuto un attimo di palpitazione. È durata pochissimo. Professore, ma intanto noi con lei ora parliamo di extravergine d'oliva o di oliva in generale? In termini di salute ci sono delle differenze, le ricerche, quale tipo di olio hanno studiato? Allora, sostanziale, l'extravergine di oliva è il più studiato. Devo dire che anche gli altri oli d'oliva contengono comunque una serie di sostanze interessanti, però l'extravergine di oliva è fondamentalmente un succo di frutta, cioè è una spremuta meccanica, così come viene, come facevano gli antichi, e tra l'altro lo facevano veramente, il primo olio d'oliva credo risalga a 6.000 anni prima di Cristo, e quindi è un modo per concentrare all'interno di un alimento straordinariamente gustoso realmente un piccolo patrimonio in sostanze attive molto utili per la nostra salute. Le altre tipologie di olio, in funzione del tipo di estrazione, perdono un po' di queste sostanze. Sicuramente l'olio extravergine di oliva è quindi non solo la fonte migliore, anche se la più cara, è sicuramente la più buona, ma è anche la più studiata, proprio perché al suo interno ci sono sostanze molto concentrate. Professor Scapagnini, abbiamo chiesto agli ascoltatori di raccontarci a quale parola, a quale immagine associano la parola olio extravergine d'oliva, se prezzo, se salute, se gusto o altro. Una nostra ascoltatrice ci scrive subito: all'olio di oliva extravergine va associato il cervello, credo. Ah. Fa tanto per le sinapsi, anche a dieta non se ne può fare a meno. Arci bacioni da Eloisa. Eloisa in fondo le ha un po' anticipato un po' il suo intervento, professor Scapagnini. Direi di sì, perché le sostanze contenute all'interno dell'olio, noi spesso associamo l'olio d'oliva sicuramente al suo principale componente, che è un acido grasso monoinsaturo, che si chiama acido oleico, ed è sicuramente estremamente sano da un punto di vista dell'equilibrio lipidico, e parzialmente questo non fa bene solo al colesterolo, nel senso che tiene giù il colesterolo cattivo, ma aiuta in qualche modo molti aspetti delle membrane delle nostre cellule. Però oltre a questo aspetto strettamente collegato alla sostanza oleosa, l'olio d'oliva contiene al suo interno piccole molecole che fanno parte di una categoria completamente diversa, i famosi polifenoli, certo, che hanno dimostrato un'azione estremamente interessante sulla salute del nostro cervello. Professor Scapagnini, la fermo un attimo per dire che i polifenoli, magari ci sono delle persone che non hanno sentito Cuore dei Nari, no? In questo ultimo periodo, si sono perse delle puntate che abbiamo dedicato proprio a queste sostanze che la ricerca sta studiando con grande attenzione, che possiamo paragonare a una sorta di sistema immunitario delle piante, è corretto, professore? Sì, le piante non hanno cellule immunitarie, ma sviluppano molecole chimiche che aiutano la pianta a sopravvivere, a difendersi dagli assalti di batteri, virus e anche alle intemperie, all'eccessiva presenza della luce, degli UV e così via. Beh, queste sostanze per noi non sono dei nutrienti, cioè non servono a fare né energia né materia, ma una volta che vengono assunte dal nostro organismo sono in grado di interagire con la nostra biochimica attivando aspetti estremamente rilevanti dei segnali cellulari che corrispondono a sopravvivenza, longevità, miglioramento di funzioni. E proprio sul cervello ci sono stati moltissimi studi recenti, per esempio sull'azione di molto caratteristici e tipici proprio dell'olio vergine di oliva. Poi dopo dico anche i nomi perché sembrano delle parolacce. Cioè, diciamole subito. No, il più carino di tutti è l'oleuropeina, che forse è tra l'altro la più studiata proprio nel cervello, perché sembra essere in grado di ridurre in maniera significativa l'accumulo di beta amiloide, che non so, non è un esperto, secondo me non dice niente, è l'oleuropeina anomala che si sviluppa nella malattia di Alzheimer, la peggiore malattia neurodegenerativa, diciamo, dell'invecchiamento. E le altre parolacce, cioè gli altri polifenoli molto studiati sono l'idrossi pirosolo, e in particolar modo ce n'è un'altra che ha un'azione potentissima come antinfiammatorio e antidolorifico, si chiama olbocale. È stata scoperta da poco, è diventata subito una piccola star perché agisce più o meno come fanno gli antinfiammatori non steroidei, in particolar modo l'ibuprofene, ci assomigliano moltissimo, e solamente che ce lo fornisce l'olio d'oliva. Professore, io ricordo i suoi studi sulla curcumina. Perché lei, insomma, il cervello, diciamo, è un po' il suo campo, no, di studio privilegiato. A questo punto, dato che sono tante le sostanze a cui la ricerca ha attribuito effetti vantaggiosi nella prevenzione delle malattie del cervello, facciamo un po' una sorta di analisi comparata. Olio o curcuma, chi vince? Allora, io non farei una competizione, ma proverei un'alleanza, cioè dai, se dovessi vederla dal punto di vista strettamente degli effetti. Si potrebbe immaginare una sorta di sinergia straordinaria, perché la curcumina per poter essere assorbita necessita dell'olio, e quale olio migliore dell'olio extravergine d'oliva che aiuta la curcumina ad agire meglio sulle sue funzioni di protezione del cervello. I meccanismi di azione sembrano essere un po' diversi, nel senso che l'olio d'oliva fornisce sostanze che specificamente proteggono il cervello da malattie neurodegenerative, ne aiutano la sopravvivenza. La curcumina è un potentissimo attivatore delle difese antiossidanti. Quindi di questo parleremo, professor Scapagnini, devo dare la linea al GR. Di questo parleremo dopo il GR, ma anche di quanto olio possiamo permetterci. È meglio aggiungerlo crudo, cotto, sì. Che fare? A tra poco. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Cuore e denari. Pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te, at the drive. Spaghetti, pollo, insalatina, provate a pensare, tutti questi alimenti per essere cucinati o conditi hanno bisogno di un filo d'olio. Noi torniamo a parlare di olio extravergine d'oliva, insieme al professor Giovanni Scapagnini, professore di biochimica all'Università degli Studi del Molise. Professor Scapagnini, allora abbiamo visto che l'olio extravergine d'oliva, lei ci ha raccontato, sembra che abbia tutte le carte in regola per rispondere a questa esigenza sempre più diffusa, che è quella di dare la preferenza a prodotti che, oltre a gratificare il palato, siano anche capaci di svolgere una funzione protettiva e preventiva. Insomma, quello che mettiamo nel piatto vogliamo che non sia solo buono, ma che ci faccia anche bene. E l'olio extravergine di oliva, lei ci ha raccontato, per la ricchezza di polifenoli riesce a proteggere e a preservare la nostra salute. Ha sottolineato di questa straordinaria relazione che ha per il benessere cerebrale, ma io vorrei parlare anche di uno studio, tra l'altro è uno studio italiano, che ha dimostrato l'azione antitumorale dell'olio extravergine d'oliva, in particolare nei confronti del tumore del secondo cervello, parliamo dell'intestino e in particolare del colon. Professor Scapagnini, lo studio è stato condotto dall'Università Campus Biomedico di Roma e dall'Università degli Studi di Teramo in collaborazione con il Karolinska Institute. Ed è stato appena pubblicato sul Journal of Nutritional Biochemistry, che è un'ottima rivista, diciamo, di biochimica e nutrizione, e in qualche modo è uno studio interessante perché fa vedere come i composti di cui abbiamo parlato, cioè i nostri famosi polifenoli dell'olio d'oliva, sono in grado di, loro l'hanno sviluppato sia sul modello cellulare ma anche in vivo su però un modello animale, quindi sul topo, sono in grado di attivare un gene che si chiama CNR1, che è un gene che esprime un recettore estremamente rilevante nella protezione dal cancro del colon. C'è da dire che questo recettore in effetti non fa solo questo, ma mille altre cose positive, E tanto per dire qual è questo recettore, è il recettore dei cannabinoidi che noi associamo normalmente alla marijuana, ma che invece non ha niente a che fare, perché ha un ruolo nella nostra fisiologia importantissimo, collegato a regolazione dell'infiammazione, protezione dei tumori, ma anche miglior funzionamento del cervello e soprattutto controllo di aspetti come piacere e dolore, ovviamente in senso positivo, cioè insomma, certo. Piacere. Quindi in qualche modo è una scoperta che ha una rilevanza molto importante sulla protezione dei tumori, cosa che devo dire mille altri dati epidemiologici avevano già rilevato, cioè l'olio extravergine di oliva nell'ambito della dieta mediterranea sembra essere uno dei fattori più importanti nell'azione positiva della dieta mediterranea su protezione da malattie cardiovascolari, tumori e patologie associate all'invecchiamento in generale, compreso la demenza di cui abbiamo parlato prima. Però diciamo nello specifico il meccanismo è importantissimo perché protegge da uno dei tumori diciamo, maggiormente diffusi, che è quello del colon retto, ma questo stesso meccanismo, e questo lo aggiungo io anche se lo studio ne parla poco perché è molto specifico, è un meccanismo estremamente positivo in generale per la qualità della nostra salute. Ma un ascoltatore ci scrive: mangiare le olive fa lo stesso effetto? Lo chiediamo al nostro prossimo ospite, il professor Pierluigi Rossi, medico specialista in scienze dell'alimentazione e docente all'Università di Bologna. Buongiorno professore. Benvenuto. Buona giornata. Mangiare le olive fa lo stesso effetto? Ci scrive un ascoltatore. Sono due alimenti diversi. L'olio è un alimento, l'oliva è un altro alimento. Nell'oliva ci sono dei nutrienti che svolgono un'azione anch'essi di genomica, di apporto di nutrienti che possono agire proprio direttamente agendo sul DNA, sul nostro patrimonio genetico. Ovviamente nell'olio ci sono degli acidi grassi, c'è una concentrazione lipidica diversa ovviamente rispetto alla drupa dell'oliva. Quindi possiamo mangiarci sia qualche oliva e poi possiamo condire con l'olio. Sono due alimenti diversi che possiamo naturalmente invitare sulla nostra tavola. A quest'ora poi. Dove andiamo? Andiamo da Cosimo da Fasano, che abbiamo acciuffato perché ci ha scritto un bel messaggio e noi subito, insomma, lo abbiamo intercettato perché ci incuriosisce subito il fatto che abbia attrezzato un sito internet che si chiama... Cosimo, buongiorno. Buongiorno, si chiama lovolio.it. Ecco, e ne ha anche tratto un libro lei. In realtà i volumi sono due. Abbiamo L'Olio Puglia, che è un viaggio in Puglia utilizzando l'olio come navigatore satellitare attraverso 400 percorsi ciclabili. Ah. E L'Olio invece, che è un viaggio nel mondo dell'olio e della salute, avendo anche una piccola sezione dedicata ai bambini, quindi il vocaboleario, dove attraverso dei disegni dei bambini si racconta l'olio di qualità. E insomma, Cosimo, lei ne sa che cosa voleva raccontarci a Cuore Denari? Ma diciamo che in realtà questo lavoro parte da una pubblicità del 1964 che diceva l'olio dei sette pregi e si parlava di un olio motore. La scommessa è stata quella, dopo 50 anni, di trovare sette pregi sull'olio extravergine di oliva. Allora ce li mandi, che noi li mettiamo che sul noi li nostro mettiamo, profilo Facebook. Ma tra l'altro, grazie a Cosimo, tra l'altro, professor Scapagnini, l'olio extravergine d'oliva, sull'olio extravergine d'oliva si è espressa anche l'EFSA, che ha riconosciuto a questo prodotto 3 claim salutistici. Ce li vuole raccontare? Ma, sì, diciamo, l'EFSA è l'Agenzia Europea della Sicurezza Alimentare, in qualche modo la nostra FDA, cioè è l'ente che regola il cibo e anche attribuisce delle proprietà vantabili in etichetta, e i claim utilizzabili dall'olio d'oliva sono due indiretti, perché è collegato al fatto che, siccome l'olio d'oliva aumenta molto il quantitativo di acidi grassi monoinsaturi, questo è considerato un elemento positivo nell'ottica dell'abbassamento del colesterolo. Poi è una fonte ottima di vitamina E, che è stata attribuita come tale di un potere antiossidante che può essere vantato. Però il claim più interessante, ed è un claim diretto ai polifenoli dell'olio d'oliva, è un claim che attribuisce all'olio d'oliva la possibilità di vantare in etichetta una protezione sulle LDL ossidate. Cosa vuol dire le LDL ossidate? Cioè è in grado di ridurre i livelli del colesterolo cattivo, che è all'origine della placca ateromatosa. In parole povere vuol dire che ha un'azione molto utile nella protezione del sistema cardiovascolare e della salute del nostro cuore. Quindi l'olio fa bene anche al cuore. Ma professor, professor Rossi, a filo, a cucchiaio, cotto, crudo, fritto, quanto possiamo permetterci? Qual è l'uso migliore? L'uso migliore è a freddo e a crudo, e la dose consigliata è circa di 20 grammi per una donna e circa 30 grammi per un uomo a pranzo. Quindi complessivamente potremmo prendere 30-40 grammi di olio extravergine al giorno, distribuito tra pranzo e cena. Ma quello che diceva poc'anzi il professor Scappagnini, io vorrei svilupparlo anche in una ricerca che sto portando avanti riguardo al nostro intestino. I polifenoli di cui abbiamo parlato svolgono un'azione nei confronti del nostro sistema cardiocircolatorio, lo dicevano i cinesi, lo conosciamo tutti, che l'amaro protegge il cuore e il sistema cardiovascolare. I polifenoli sono, non sempre, ma per lo più, sostanze amare, quindi mangiare amaro spesso aiuta il nostro sistema cardiocircolatorio. Ma i polifenoli dell'olio extravergine di oliva vengono anche mangiati, tra virgolette, anche dai nostri batteri. Quindi noi nutriamo, quando mangiamo con l'olio, anche i nostri batteri, che si chiamano microbiota. Il microbiota è un organo metabolicamente attivo presente all'interno del colon, quindi un organo all'interno di un altro organo. Questo microbiota è costituito da un insieme di miliardi e miliardi di batteri, di tante specie batteriche, che possono interagire tra di loro in maniera sinergica, per cui ci sono batteri che mangiano i polifenoli e, trasformando i polifenoli, producono altre molecole che poi servono ad altri batteri. E i polifenoli in questo modo riescono a portarci ad avere un microbiota sano. In sostanza, dalla leggenda dell'olio extravergine d'oliva, dopo 5.000 anni, noi siamo arrivati a dimostrare che l'olio extravergine d'oliva è un alimento che agisce nella più recente e più attuale ricerca scientifica. Professore, sappiamo che ci sono delle persone che, quando autonomamente, e sottolineo autonomamente, decidono di perdere qualche chilo, eliminano, no, dalla dieta, e l'olio è una di queste, esatto. Perché anche gli ascoltatori ce lo stanno raccontando, sì, e fa bene, è ricco di proprietà, di sostanze che ci fanno bene, però ci sono tante calorie. Ecco, diminuendo o riducendo drasticamente la quantità di olio per paura di arricchire la dieta di troppe calorie, arrecchiamo danni alla nostra salute. Io vorrei che lei ci aiutasse a sottolineare questo aspetto. Innanzitutto dobbiamo dire che all'interno del corpo umano le calorie non esistono, in quanto il corpo umano utilizza le molecole alimentari e respiratorie che noi introduciamo con l'alimentazione e con il respiro, quindi tutto il sistema, il calcolo calorico giornaliero è destituito di fondamento scientifico, perché il corpo umano è una struttura biologica che utilizza energia chimica, adenosina trifosfato, e non certo l'energia calorica come se fosse una locomotiva, un'auto, certo, oppure una bomba, oppure una caldaia. Il corpo umano non è una caldaia che produce calore per vivere, è certo, qualcosa di più alto. Quindi quando noi guardiamo all'olio, come a tutti gli altri alimenti, ma nella fattispecie di oggi nell'olio, noi non dobbiamo guardare verso l'olio in termini di calcoli di calorie, ma in termini di ciò che contiene. E la sostanza, una delle molecole fondamentali dell'olio è l'acido oleico, che è un acido monoinsaturo che svolge quella funzione essenziale sia per produrre energia, sia per entrare nelle membrane cellulari, ma soprattutto anche per favorire l'assorbimento di una serie di altri minerali e di modulatori igienici che sono nell'intestino. Quindi noi dobbiamo guardare nella sua complessità, fermarsi a calcolare una caloria in più, una caloria in meno. È un po' come le persone, devi prenderlo un po' nella loro complessità, certo, non nel singolo, perché se tu guardi una persona solo per il naso, allora dici, certo, va, e invece magari si sposa perfettamente in quel viso. Con i lineamenti. Andiamo alle domande, certo, dei nostri ascoltatori e i messaggi, esatto, che stanno arrivando al 349-238-6666. Allora, anticipo già che accontenteremo Gianluca, che ci chiede, per un bambino di 3 anni, qual è l'alimento. Ah no, aspetta, per un olio di produzione di 3 anni, buon sapore, va bene per un neonato o meno. Questa accantoniamo per un attimo per dar spazio intanto a Gaetano dalla provincia di Napoli. Abbiamo pure buongiorno, lo chef stamattina. Sì. Non buongiorno, ci facciamo mancare mai. Buongiorno. Guardi, io nella mia vita, ho avuto un'esperienza californiana per 25 anni. Ho avuto ristoranti negli Stati Uniti. E poi è ritornato a casa, vede? Sì, per il momento sì. Per il momento va sì. Va bene, allora che cosa ci racconta? Comunque volevo dire, per promuovere l'olio d'oliva negli Stati Uniti, quello che facevo nelle mie cooking demonstrations, cooking demonstrations? Sì, sarebbe le sì, abbiamo capito che insegniamo ai clienti, al pubblico, quali sono le differenze per come cucinare l'olio extravergine, il puro e il vergine, che sono tre tipi differenti di oli di oli. Perché tutti quanti comprano l'olio extravergine e lo cucinano in tutte le maniere, mentre invece c'è una diversificazione. Per quanto concerne l'olio extravergine, va consumato solo ed esclusivamente crudo, non si cucina con l'olio extravergine. Va bene, insomma, questa è la prima regola dello chef. Poi veloce un'altra, poi la dobbiamo salutare. Il puro si usa per saltare. Sì, saltare in padella. Sì. Chiedo scusa, il vergine si usa per saltare in padella. E il puro si può usare anche per friggere. Grazie, questo grazie è il Gaetano. Parere di Gaetano dalla provincia di Napoli, chef che ha fatto un saltino in America e è ritornato. Ma professor Rossi, per i bambini va bene l'olio extravergine d'oliva? Così rispondiamo a Gianluca. Sì, va bene l'olio extravergine di oliva perché va utilizzato anche nel periodo dello svezzamento, nei primi atti alimentari. Bisogna aiutare proprio a maturare l'intestino e a orientare il microbiota fin dai primi atti alimentari, perché il microbiota poi, questi insiemi di batteri, rimarrà per tutta la vita, quindi si forma nei primi atti alimentari, da quando c'è l'allattamento e anche durante lo svezzamento. Quindi se noi prendiamo e utilizziamo l'olio extravergine di oliva, orientiamo verso un microbiota sano e avremo l'intestino sano per buona parte e per tutta la vita. Quindi è una scelta cara. È una scelta salutare. Professor Scapagnini, torno a lei perché da quanto ci racconta il professor Rossi mi sembra che ci ha dato uno straordinario assist per raccontare di una ricerca dell'Università di Navarra che sottolinea i vantaggi dell'uso dell'olio extravergine d'oliva nella nostra dieta anche per stabilizzare il tono dell'umore. E dato che sappiamo che è molto importante la salute del microbiota anche per il nostro intestino, mi verrebbe da dire tutto torna. Assolutamente sì, diciamo nel nostro settore di chi si occupa di cervello spesso dice un cervello infiammato è un cervello depresso. Allora l'Università di Navarra ha fatto uno studio strepitoso utilizzando come popolazione di osservazione soprattutto gli iscritti, gli studenti e i professori dell'università, anche una fetta della popolazione locale, uno studio condotto su quasi 19.000 persone, quindi enorme, e ha fatto vedere come l'olio d'oliva è l'elemento che in qualche modo caratterizza un vantaggio in termini della qualità del tono dell'umore a tutte le età nella popolazione spagnola. E diciamo che sicuramente l'associazione più immediata di questo effetto ha a che fare con l'azione antinfiammatoria. Io devo dire che tra l'altro condivido appieno il discorso del professor Rossi e il ruolo dei polifenoli sul microbiota batterica intestinale. Credo che sia l'inizio di una nuova era della nutrizione. Cioè un domani capiremo realmente come modificare questo incredibile organismo che è dentro il nostro intestino. Professor Scapagnini, la stiamo perdendo, ma sul ruolo dei polifenoli anche per il microbiota abbiamo capito bene il messaggio che è arrivato da lei, dal professor Rossi, a cui in chiusura vorrei chiedere una curiosità. Abbiamo parlato dell'olio, ma vorrei anche parlare del burro che negli ultimi tempi sta riconquistando il favore dei nutrizionisti. Che cosa è cambiato? Cambiato che la ricerca scientifica ha fatto emergere la esatta composizione del burro, per cui il burro è un'emulsione di acqua e di sostanze lipidiche, però il burro ha una varietà e una ricchezza di acidi grassi superiore allo stesso olio di oliva. L'olio di oliva, l'olio extravergine di oliva è concentrato sui monoinsaturi e su altri nutrienti come ci sono altri polifenoli e altri nutrienti che sono utili, però nel burro ci sono tutta una serie di acidi grassi che finora non erano stati presi in considerazione. Beh, dedicheremo una puntata anche all'altro condimento della, no, per par condicio. Intanto il messaggio è chiaro, no? Poco di tutto, troppo di niente. Esattamente. Allora, per concludere, vi ricordo che nella home page del sito di Radio 24 andate a curiosare, perché trovate il link per compilare il questionario, un questionario, e diventare protagonisti del reality di Cuore Denari Expo. Se siete dei sedentari e volete cambiare il vostro stile di vita, candidatevi a partecipare al nostro progetto. Andate sul sito di Radio 24, cliccate proprio sul progetto Cuore Denari Expo, vedete che vi aspettano tantissime cose interessanti. E non solo per i sedentari, ma anche per gli over 50, per gli sportivi, per le mamme che sono in attesa, per gli stressati. Profilatevi e partecipate al nostro reality. Un invito che naturalmente giriamo anche al professor Scapagnini e al professor Rossi, che ringraziamo di cuore per essere intervenuti con noi. Buonissima giornata a tutte e due. Grazie. Grazie. Grazie. In regia Andrea Roccabella. Sì, esatto, in assistenza in redazione Isotta Scenna e Marco Lombardo. Noi sentiamo torniamo domani, assolutamente puntualissime. Buona giornata.